11:06 sulle libere frequenze di Radio Blackout, siete all'ascolto di Parole Ribelli. Buongiorno a tutti e tutte da Eddie. Un saluto anche da Francesca, come sempre la trasmissione del collettivo universitario autonomo sarà qui a tenervi compagnia sulle libere frequenze di Blackout fino alle 12:45. Vi ricordiamo come sempre anche i contatti per chi volesse scriverci o telefonarci nel corso della trasmissione, il numero del telefono fisso 011-249-5669, per gli sms potete invece scrivere al 346-667-3263. E infatti a tal proposito leggiamo un sms appena arrivato: Emilio, lotta con tutte le tue forze, questi maledetti di Casa dei Topi la pagheranno. Ciao da Ale e Robby da Modena. E allora ci uniamo sicuramente a Ale e Robby da Modena, ma abbiamo visto che da tutto il paese si alza, diciamo, nelle voci e nelle piazze anche virtuali, Emilio resisti, e abbiamo visto l'aggiornamento fatto prima dall'info, ma sicuramente anche da questa trasmissione, se ci sarà qualcosa da dire, sicuramente rimarremo sintonizzate. Sì, diciamo, gli aggiornamenti che venivano dati prima da Aurelio e Maria nel collegamento da Cremona, insomma, non erano dei migliori. Dopodiché il compagno che è stato sentito si stava recando all'ospedale in quel momento, quindi non aveva, insomma, notizie di prima mano, quindi magari nel corso della puntata più tardi cerchiamo di risentire qualche compagno del Dordoni per capire meglio la situazione, insomma, rimanere aggiornati anche sulle mobilitazioni dei prossimi giorni e sulle informazioni anche per raggiungere Cremona nella giornata di sabato per il corteo nazionale antifascista. Noi su questo vi lasciamo un pezzo musicale, poi andiamo a presentarvi la puntata di oggi. Jake, what's up to Carolyn Case? Some people call it the eight, but it's a sovereign state. I heard the water's the place. They try to cancel our performance, but the scholars keep a pouring, believe. Whoa, I'm breathing in, and they came to get away, but we came to get it in. When they call it, it's the day, that's when the day for us begin. The people turning up, they stereo, they playing me again, once again. Breathing in, and they came to get away, but we came to get it in. When they call it, it's the day, that's when the day for us begin. The people turn turning up the stereo, they play it again, once again. Selector with the tunes, cruising with my cruiser, with my cruiser, with my crew. Oh, you say you got a friend, well you can bring a crew. Cruising with my cruiser, with my cruiser, with my crew. Come inside my house, bride, you gotta lose the shoes. Cruising with my cruiser, with my cruiser, with my crew. Driving with my feet, yabba dabba doo. Cruising with my cruiser, with my cruiser, with my crew. In the wind, breathing in like in the cloud, breathing out like near the edge of the daylight. Allora 11:16 torniamo in onda con Parole Ribelli, andiamo a presentarvi brevemente gli argomenti che affronteremo nella puntata di oggi. Andremo a dare sicuramente qualche riscontro rispetto all'Assemblea Nazionale No Expo che si è tenuta nel fine settimana appena concluso a Milano, un primo momento di confronto appunto nazionale e molto partecipato in vista di quelli che saranno i prossimi mesi fino ad arrivare insomma le giornate un po' centrali di maggio, ma sicuramente molte saranno le tappe intermedie, molto sarà il lavoro da fare anche sui singoli territori, quindi andremo a raccontarvi un po' insomma che com'è andata. Poi andremo a sentire un po' questo blogger, faremo una diretta su i fatti diciamo di Parigi. Nella scorsa puntata dicevamo appunto che ci saremmo poi ci saremmo soffermate su quello che è stato diciamo un po' l'evento che ha annunciato un 2015 di assestamenti, quindi abbiamo visto appunto andare una trattazione mediatica dalle mille sfumature rispetto alle morti di Parigi. Abbiamo visto alzarsi poche voci che interrompessero questa sequela costante di cordoglio e di inneggio alla libera espressione. Bene, una di queste è il blogger torinese educatore Karim Metref, che andremo a sentire proprio oggi. Niente, per il resto andremo a dare qualche aggiornamento insomma dagli spazi in università anche rispetto agli appuntamenti di questi giorni, e come annunciavamo già prima cercheremo anche di dare qualche aggiornamento rispetto alla situazione di Cremona. Come già preannunciavo, peraltro verranno anche organizzati dei pullman da Torino per raggiungere la manifestazione, quindi insomma per tutti coloro che intendono partecipare l'invito ovviamente a rimanere un po' sintonizzati sui vari canali di controinformazioni in questi giorni, dove appunto verranno date tutte le informazioni del caso. Noi adesso vi lasciamo un pezzo musicale, poi iniziamo ad addentrarci nella puntata. Like a former microplatform, and we can't stop. Yeah. 11:21, come dicevamo, cominciamo a dare un po' di aggiornamenti. Sappiamo che sabato 17 c'è stata a Milano l'Assemblea Nazionale No Expo. Abbiamo visto, diciamo, dopo una mattinata di workshop con dei focus un po' più calati rispetto a lotte territoriali piuttosto che a singole vertenze, e si è andati a diciamo riunirsi tutti quanti poi in questa assemblea molto partecipata, tenutasi in questa in quella che i compagni di Milano hanno chiamato una TAZ, in via Mascagni, a seguito della, della chiusura della statale da parte della polizia. Una, diciamo, una chiusura che dalla velina della questura esce sia stata richiesta dal rettore, probabilmente quello stesso rettore che una settimana prima era Charlie Hebdo. Quindi, diciamo, dopo appunto aver scoperto nella mattina che di fatto la statale non sarebbe stata praticabile, i compagni e le compagne milanesi hanno occupato questo luogo in via Mascagni per garantire lo svolgimento dei workshop e dell'assemblea. Un'assemblea, come dicevo prima, molto partecipata, che ha visto compagni e compagne da tutta Italia, da collettivi, comitati, singole individualità, e la soprattutto riconnessione, diciamo, di tantissime lotte intorno al paradigma Expo, il paradigma che appunto è stato individuato come quello che è un modello di sviluppo, una precisa tattica predatoria che riguarda i territori, quella della grande opera, del grande evento, che di fatto appunto tutto mangia, tutto cementifica e tutti mette al lavoro, in questo caso gratuitamente oppure in maniera precaria. Abbiamo visto negli anni appunto molti i rimandi ovviamente alla lotta No TAV, presente anche appunto il movimento No TAV, nello specifico nella persona di Nicoletta Dosio, che appunto sappiamo aver da tempo indicato la grande opera come nemica di tutti coloro che non fanno parte delle lobby del cemento, delle lobby della speculazione. Quindi appunto ancora una volta si punta il dito, l'Expo diventa ancora di più, però in questo caso appunto accorpata a il grande evento, tutte le aree della vita un po' si vogliono, è la retorica stessa di chi promuove Expo a volerlo onnipresente: Expo il cibo, Expo le donne, Expo la formazione, Expo è tutto, Expo qua, Expo là. Quindi sostanzialmente proprio dalla tematizzazione della controparte, non per partire da lì, ma perché effettivamente poi lottare contro la devastazione dei territori è lottare contro la speculazione nelle città, è lottare contro anche le grandi distribuzioni delle sementi, è lottare contro la finanziarizzazione della formazione, della sanità e di tutti gli ambiti della nostra vita. Quindi sicuramente appunto in maniera molto larga e trasversale tantissime realtà in tutto il paese si sono assunte questa data, questo 1° maggio di lotta, che appunto ricordiamo il 1° maggio sarà l'inaugurazione dell'Expo in città, mentre il 2 maggio si terrà l'inaugurazione dei cantieri a Roffiera. Appunto questa assunzione molto larga, molto ampia e molto varia, che vuol dire effettivamente non solo che andremo tutti a Milano il 1° maggio e non vuol dire solo che si aderisce alla campagna contro l'Expo, ma è l'impegno anche a cercare di capire come si articolano nei vari territori i tentacoli di quello che appunto non è un'esposizione universale, non è il singolo evento del 1° maggio dei 6 mesi che lo seguono, ma un paradigma estrattivo che di fatto poi va a sottrarre possibilità, reddito e capacità, diciamo, e qualità della vita, vivibilità a tutti noi. Sì, a questo proposito, tra l'altro, per quanto riguarda il mondo della formazione, che insomma quello che ci riguarda un po' più da vicino e che era anche oggetto di uno dei workshop della mattinata, segnalo che esiste una diramazione apposita del sito dell'Expo che si chiama Comitato Scientifico-Expo2015.org, che si occupa proprio specificatamente delle università per Expo 2015, quindi dei vari vari appuntamenti, collaborazioni che i vari atenei sparsi in tutta Italia costruiranno di qui ai prossimi mesi, quindi sicuramente sarà anche interessante per quanto riguarda Torino e la nostra università andare a vedere queste connessioni, insomma anche agire di conseguenza, tenere un po' d'occhio quelli che potranno essere vari eventi, appuntamenti, andare un po' a smascherare, insomma anche proprio a partire dai nostri territori il vero volto di Expo, assieme ovviamente a tutta la già ricordata questione del lavoro gratuito, che ovviamente andrà a investire un soggetto per lo più giovanile, che è quello che un po' incontriamo tutti i giorni nelle nostre facoltà e non solo, quindi il lavoro da fare sarà sicuramente tanto. Di qui ai prossimi mesi cercheremo ovviamente di dedicare di volta in volta un po' di spazio al progredire di questo lavoro anche da questi microfoni. Aggiungo solo una cosa e poi andiamo avanti con un po' di musica. In altre occasioni avevamo parlato proprio a questi microfoni di un evento dell'Università di Torino, Acunito. Bene, Acunito diciamo appunto non ha a che fare con l'Expo, non è una sua costola, bensì è una creatura squisitamente figlia dell'Ateneo torinese, eppure nello stesso modo sembra comportarsi, perché effettivamente abbiamo visto che diciamo lavoro gratuito, chiamato volontariato, adesso appunto Acunito lo chiamo hackathon, o comunque rivestito in altre forme, in salsa partecipativa, collaborativa, facciamo tutti insieme qualcosa, ecco, c'è da tempo nelle università e si sta solo inasprendo. Da Acunito all'Expo, come diceva Francesca, continueremo a tenere gli occhi aperti. Allora, questo su Milano per questa settimana più o meno è quanto. Rimandiamo insomma anche i vari canali di controinformazione No Expo che sono nati in questi mesi, per chi insomma volesse tenersi aggiornato. Noi vi lasciamo a un po' di musica, poi torniamo in diretta. Quale mai sarà la via più giusta? Marchese marketing, l'ennesimo dei veri artisti che si frustra, analisi sempre più spesse, così si espresse Zarathustra, saggio come Yoda, fuori moda, mentre in voga il gaggio che ti inquisisce, ti inchioda senza toga, meditazioni, yoga, sesso, rock e droga, chiusi nella nostra sinagoga, creiamo gli slogan che infuocano, quegli altri giocano, War Games 2000, conosco la trafila, io so come infiltrarmi, troppi bugs nei tuoi programmi, tieni d'occhio i tuoi risparmi, prima o poi mi paghi i danni, sto coi falliti che fanno crollare i miti, deciditi, sono convinto, per questo spingo i limiti, restando coi piedi piantati per terra, questo è l'ipoco, cazzo, questa è guerra, chi non segue il gregge sa leggere tra le rime, aggiungo un altro pezzo, l'ipoco è un mezzo, non un fine, infine, se chi reprime colleziona figure di merda come figurine, chi si deprime, non posso credere agli esempi che mi citi, nei fissiti, troppi principi, pochi principi, non è uguale, la mia famiglia è reale, mentre guasta con qualche ideale, non è usuale, prima o poi sta nebbia si dirada, sempre più gioventù squilibrata, giù in strada, lotta armata, lotta armata, che io devo con il pugno e il microfono armata, DJs con le dita sui dischi, lotta armata, non c'è che non tocca gli spray, lotta armata, questo è B-Boy senza mani sul cazzo, lotta armata, DJs con il pugno e il microfono armata, DJs con le dita sui dischi, lotta armata, tocca gli spray, lotta armata, questo è B-Boy senza mani sul cazzo, lotta armata. Non mi impegnerò neanche, può che ciangi, tu che affonda l'ansia nella schiena, manco il gange ti purifica da questa scena, piangersi di me ormai l'ha fatto, manca di rispetto, beh, il mio destino me l'ha detto, sono il secondo genito, il cadetto, scelgo l'arma e il micro, con o senza il filo, primo, seguo un codice d'onore, non uccido per primo, tramando e tengo vivo quel che vedo, quando mi esprimo, mentre un'altra astronascente, si sente già un pilastro, portando in alabastro, pendente, perché è più importante, porre il proprio nome sull'Atlante, guerra fra clou, finisce come mue Atlantide, civiltà evolute, che non si sono capito volute, adesso sono perdute, anche le vedute, io non discuto con chi non discute, ma sei col più giovane alla tua salute. Scegli l'ottima armata, non c'è raga che non tocca gli spray. L'ottima armata, non c'è b-boy senza mani sul cazzo. L'ottima armata, MC con il pugno e il microfono armata, DJ con le dita. Scegli l'ottima armata, non c'è raga che non tocca gli spray. L'ottima armata, non c'è b-boy senza mani sul cazzo. L'ottima armata, se vogliono la guerra. Non obbligarmi a dicono intanto al 346-66-73-263, controllo per quise, eccetera, ai stazionanti in via Bertollè. They say that racism in America's over. Who tell that to the pigs when they pulling me over? No eye contact, just a gun out the holster. Plantation overseers, prisons filling their quota. They call us niggas, they call us thugs. Shit, we all good for nothing and we all sell drugs. They call for blood, they calling the squadron. But I am Oscar Grant, I am Trayvon Martin. Jelani Manigo and Philip Pinel. Invisible man faces at the bottom of the rafters. We've been through hell, still seen eternal life in Henrietta Lacks cell. These Uncle Toms be corrupting the biz, and it's word to the wire under Al Sharpton's wing. Pigs full shooters in the back door, regardless of them nigga tweets from Gwyneth Paltrow. How low do we go to fit in? Killing ourselves, even bleaching our skin. Racism bids stay right on track, and none of it changed just because the president's black. Fuck that. Fuck how you feel about me. Say what you will about me, but let's see how you feel when the walls come tumbling down. When the walls come tumbling down, yeah. When the walls come tumbling down, down, down. When the walls come tumbling down, yeah. When the walls come tumbling down, they wanna condition your brain when they get in there to make you believe that the walls always been there. Persevering the game without getting your flesh torn. Gotta get to a square that's not on the chessboard. Invisible walls, classism and privilege that are taller than apartheid walls you live with. Governments of business clouded in smoke. And when you're broke, only real choice, Pepsi and Coke. Motherfuckers built a wall for every reason alive, but then change the reason when they get you inside. They built a wall to try to keep terrorists out, and it becomes symbolic of what terrorism's about. Build a great wall for barbarian neighbors, and it's trampled by terrorists a thousand years later. Now they built a wall to keep immigrants out, but wanna pick and choose the immigrants they're talking about. Bare Jericho's walls came tumbling downward. The hand of God turns rock and metal to powder. Rebellious minds, I need you to think louder before they police every thought they encounter. Jericho's walls came tumbling downward. When empires fall, you see who laid the groundwork. You think the spark of revolution's an outburst? I guess before Jericho, we come to your house first. Fuck how you feel about me. Say what you will about me. But let's see how you feel when the walls come tumbling down. Immortal technique. Hassan Salam. When the walls come tumbling down, yeah. When the walls come tumbling down, down, down. When the walls come tumbling down, yeah. When the walls come tumbling down, down, down, down. 11.37 sui 105.250, volevamo iniziare con la diretta con Karim, di cui vi abbiamo anticipato pochi minuti fa, però ci ha chiesto ancora insomma un attimo di tempo perché al momento è impegnato, quindi cerchiamo insomma di invertire l'ordine delle dirette che ci eravamo dati. Proviamo a contattare i compagni e le compagne di Cremona per capire se ci sono aggiornamenti, altrimenti vi lasciamo a un po' di musica in attesa di avere Karim a questi microfoni. A tra poco. Al governo e al poliziotto non è un MP3, Panthers, ma soprattutto il ruolo dei governi e delle banche. Se è vero che l'hip hop è un fenomeno globale, allora coi tuoi testi puoi far male al capitale. E do un consiglio per chi inizia oggi a scrivere, prendilo sul serio anche se non dà da vivere. E do un consiglio per chi inizia oggi a scrivere, mantenerlo vero altrimenti non può vivere. L'ultimo consiglio che do a chi inizia a scrivere, testa indipendente perché resta a te decidere. Questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, è un MP38. Primo ama la musica, secondo ama la musica, terzo tieni a mente e non si offende questa musica. Questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, è un MP38. Primo ama la musica, secondo ama la musica, terzo tieni a mente e non si offende questa musica. Questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, è un MP38. Questo è Kento, Calafro Sound, da Reggio fino a Milano, per i miei fratelli di Milina. Yes, pensate alle parole, verso un giorno che verrà. La sua vita al margine tra terra e mare, tira pugni contro il cielo fino a quando il cielo cade. E a Milano corre voce anche a Reggio, ora si sa che ogni parola del mio rap è un colpo al cuore dello star. Sorrido a chi sta intorno, affronto un altro giorno. Questo sound è caldo perché parla al sud del mondo. Questo suono corre forte, se ne fotte dei consigli, prende a calci le tue morte come spiriti se non vuoi aprirli. E non è raro, a volte è buono e passa in rada, a volte è un sasso nella mano. Questo suono è caldo come i passi della mattina, 100.000 miglia e non si scorda i 100 passi. Se la semplicità rimane il tono più difficile, io voglio scrivere, libero il presto limite. La musica mi parla, devo stare ad ascoltarla e scrivo ancora mentre il sole sta già colorando l'alba. Ora in alto il cuore, confini non ne ha. Senza far rumore, la porta che mi dà. Penso le parole, guardando giorno che verrà, verrà. Nel quartiere sta con le stesse persone con cui ero quando dissero che era morto Falcone. Con chi ho tirato tasse, riso e dipinto palchi, soldi, birra e stessi mia. La famiglia dei palazzi, carta, penna e bacche. Scrivo musica dei caie perché un rapper senza mestie è come un uomo senza palle. In un mondo imperfetto il suono spinge all'infinito. Se indica le stelle, se chi ancora guarda il dito. Vola in alto il cuore, confini non ne ha. Senza far rumore, la forza che mi dà. Scrivo le parole, guardando il giorno che verrà. Lirista senza mone, i fratelli nella musica, se Kento Ramone. Quest'arte non puoi comprarla come una puttana si regala, ma è sempre troppo cara per chi non la ama. E tanta gente, gente ricca, non di soldi, spinge la musica mia e borghesia di Claudio Rolli. Io ce l'ho ancora e canto ancora finché ne volete. Ho il chiostro per l'incastratura e il fino per la sete. Rumore, la porta che mi dà. Leggo le parole, nostra. Qui introduco l'alchimia per il figlio di mia zia. Ora acciaio e sangue, perfetta fusione di metallurgia. Costa nostra e fonderia. Cose pesanti, pregiate, inossidabili nel tempo come l'inox. Adesso il mare è forza 8. Troppo forte per andare a largo da solo. Attracca dentro questo porto. Il granchio ti lampeggia all'ingresso per la formula segreta. Scende come cianuro per le merde. Bevi l'acqua da scaffonte. Perché qua è pura come quando va a mettere da parte. Cuore d'oro, pelle d'acciaio, batte in goccia sulla cassa del tempo come l'incudine sui martelli. Battiti, sbattiti, vai col tango. 24 carati brillano dentro per me, per te, per nubi V. Attacca il tuo cavo la CMTV e salva come un psiconauta nelle ricche terre dell'ignoto. Risvegliati all'alba del nuovo mondo, delle nuove sensazioni che cavalli offre come un franco bollo. Nostra costa come un'onda metrica si diffonde nel vortice cosmico ed entra nel tuo spazio dagli lazzo anche nell'invisibilità. Perché ora se ci sei fatti un colpo sopra la città, quando la corrente calda del fiume ti riporterà nella mescola della fusione metallo cartale. Questa è la trasmutazione originale che canta, ride e piange, fondere per fondare. Ora sciai e stato sale un vocalista sulla sinfonia, scende un estremista in mezzo alla via. Quando mette in gioco tutto si combina, carico la forza che posso alla costa. Grido a chi spinge al confino, poi perde carne da macello, la pecora nel gregge. La legge non è la mia vita, non è la mia sfida, ma pende su chi non si arrende. Quando lo scopo è l'anello di congiunzione, si è in azione, lui c'è il mio nome. Solo per dargli coraggio, per dare coscienza a un oltraggio, allargo il mio raggio, continuando anche se premo la peggio. Su qualche catena lascio uno sfregio mirato al nodo portante. E quando alla fine ci tocca, ci trova il mattino l'ora in bocca. Prima che tutto finisca, riesploderà l'ultima stella rimasta. La costellazione del granchio, fuoco su carne che imprime la forza d'impatto. Sei tra vero ed inganno è la sfida, per questo sentiero vedremo passare il nemico, nascosto da mille menzogne, protetto da sbirri, da servi e carogne. Pronti per la colata, brindisi alla calata, coscienza, mescolanza, appartenenza alla nuova reazione territoriale. Questa è l'esperienza, diffonde come il magma sulla strada bollente, incombe gruppi di granchi meccanici d'acciaio come le bombe, brillano illuminando il buio e fanno luce sullo stregone che prepara la pozione che verrà insieme ad una bella donna. Questa è la resistenza, non è la gomma, tutti le malleabili per l'industria delle marionette. Mangia fuoco è tornato per lo scontro finale e bombate le calzette sul suo pezzo forgiato. Per un guerriero del tempo intoccabile ed intaccabile come un lingua. Ci scusiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici per la pausa musicale un po' più lunga del solito, ma il nostro Karim è al momento irraggiungibile per vie telefoniche, quindi non appena insomma i nostri potenti mezzi ci diranno che è tornato nel mondo della raggiungibilità, provvederemo a fare la diretta che avevamo in programma. Senza più niente, voce dei dannati, nuova concezione per una nazione che si muove giù nell'ombra, sembra voglia dire, sembra voglia darmi, muovo per capire e incontrarmi, combatti sotto il segno di un granchio zero fatti, se verranno a cercarti, l'ordine è loro, perdono e pietà non gli imploro, io fondo l'acciaio con loro, sapendo a chi farne un tesoro, chi ci gira intorno non sarà mai pronto, vivi fino alla fine del mondo, a quello che si avvera, per l'ultima guerra del mondo, preparo una colonna sonora, solo per brillare col sole, l'amor mio non muore. Nostra. E continua la sequela di Wind, Vodafone, varie ed eventuali che Parole Ribelli sta incassando. Stante ciò, noi continuiamo a deliziarvi con un po' di musica. Se stai ascoltando il mio messaggio, parla al cielo con gli occhi. Poggetto polpastrelli sulla struggle che tocchi. Via 90-100, sempre nello stesso posto. Il marchio della City non lo scogli di dosso. Cerco uscite in una porta disegnata sul muro. Gioco con lo stesso schema, con la faccia da duro. Con la faccia di chi crede che qui niente è al sicuro. Con la rabbia di chi ha preso 10.000 vaffanculo. A volte mi chiedo perché siamo venuti qua. La voce della gente nella nostra città. Poi mi chiedo tra 20 anni di cosa resterà. Ho parlato col futuro e lui ha parlato con Fra. Ho come l'impressione che oggi il cielo va giù. Scrivo ancora con la penna. Troppo cielo su di noi come in pace e guerra. Dedicata ad ogni stella sul cielo di Ballarò. Cadete sul cemento che calpesterò. Questo è il marchio della City e non lo togli di dosso. Tutto ciò che hai fatto non può essere rimosso. Oh, tutto questo sei tu. Oh, questo è il marchio della City e me lo vedi addosso. Tutto questo sono io senza alcun rimorso. Oh, tutto questo sono io. Oh, sto guardando le foto, ogni centimetro fa parte di te. I segnali, le linee mi ricordano te. Ciò che puoi essere nessuno raccoglie. Pare voglia dormire sulla pancia delle foglie. Mille bandiere, portoni e galere. Vorresti andare dritto con la pace di avere. Ma lì fuori è trincea certe sere. I muscoli colpisci e sorreggi. Vuoi un cuore perché ovunque proteggi. Magnetico, non puoi restare sempre sul tetto. Tenerti stretto un angolo perfetto. Se non ci pensa Dio, ci penserà l'architetto. Non ci penso io, so già quanto scommettono. Mai vergognato dei diritti della causa. Dei mobili della casa, nemmeno di fare pausa. E non fumo uno alla vostra salute. Mentre la radio informe, la scena si chiude. Tutto il resto va così. Questo è il marchio della City, non lo togli di dosso. Tutto ciò che hai fatto non può essere rimosso. Allora, 11:54 sulle libere frequenze di Radio Blackout, torniamo in onda con Parole Ribelli dopo questa sequela, insomma, di dirette mancate. Abbiamo il nostro sempre disponibile Mattia a questi microfoni, che intanto salutiamo. Ciao Mattia. Buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno. Ciao Mattia, senti, allora con te volevamo invece dare qualche aggiornamento rispetto alla situazione dell'aula C1 occupata, l'esperienza del campus nata nella scorsa primavera al termine, insomma, di un percorso più ampio rispetto a quella, alla situazione del campus, alla mancanza di spazi per gli studenti, a tutta una serie di altre tematiche che, insomma, abbiamo più volte riportato anche dai microfoni di Parole Ribelli. Sappiamo che la scorsa settimana ci sono stati insomma alcuni smottamenti nel rapporto con i rappresentanti dell'università, che, insomma, con cui appunto c'era stato comunque un dialogo in questi mesi rispetto all'apertura di quello spazio, rispetto alla sua destinazione. Quindi niente, ti lascerei la parola per aggiornarci un po' su quello che è successo. Sì, sì, come dicevi tu, appunto, dopo, diciamo, 8 mesi e mezzo di occupazione, di liberazione dell'aula C1, l'atteggiamento dell'università, dei vertici universitari, sembra essere cambiato. Specifico un attimo che è cambiato nella misura in cui con l'università dal periodo dell'occupazione, quindi parliamo di maggio, fine maggio, l'università comunque sia, visto che, come avevi anticipato tu, comunque Campus Invaders rappresentava qualcosa in più di un classico collettivo, ma rappresentava appunto diversi studenti, l'università comunque ha deciso di non usare il pugno duro, fra virgolette, ma accortosi appunto di quanto Campus Invaders aveva fatto in quel periodo là, e con questa occupazione aveva deciso di vedersi in tavoli per cercare appunto di chiarire la situazione della C1 nei tavoli. Naturalmente in questi tavoli noi l'interesse nostro è un interesse meramente tattico, perché sappiamo che il punto d'incontro con l'università non c'è, forse non ci interessa nemmeno trovarlo, però faceva naturalmente comodo, uno per tenere appunto l'aula C1 e in generale per far sì che potessimo avanzare tante altre questioni rispetto ai problemi che troviamo in università. Bene, ci sono stati più o meno 5-6 tavoli da maggio ad ora. In questi tavoli si erano chiariti dei principi basilari per noi, cioè che l'aula C1 rimanesse agli studenti, che la gestione dell'aula C1 appunto fosse degli studenti e che nel caso appunto l'aula C1 avesse un nuovo posto o un nuovo utilizzo sarebbe stato trovato un posto per gli studenti di Campus Invaders con le stesse potenzialità. Naturalmente da maggio ad adesso, o meglio da maggio a dicembre, questi tre principi sembravano essere saldi sia per quanto riguarda l'università e naturalmente per quanto riguarda noi, però abbiamo visto nell'ultimo tavolo che l'università ha rimesso tutto in discussione, cioè che quell'aula non è degli studenti bensì è dell'università e quindi loro hanno potere di veto. Quindi questo è un po' il cambio di atteggiamento che ha avuto l'università rispetto all'aula C1. Quello che sorprende in tutto questo è un po' la modalità che sta usando l'università, perché nell'ultimo tavolo appunto ci ha fatto presente che l'aula C1 serve per fine marzo per la Biennale della Democrazia. Ergo l'università cerca, fra virgolette, di sgomberare, anche se non lo dichiara, facendo in quell'aula appunto questa iniziativa che è la Biennale della Democrazia. Ecco, questo è un po' il contesto e l'analisi su cui ci stiamo muovendo e su cui oggi appunto faremo l'assemblea per capire i prossimi passi. Ecco, questa è un po' l'analisi generale. Se poi hai delle domande specifiche, ti prego di dirmele. No, sicuramente appunto hai puntualizzato bene questo cambio di rapporti, come specificavi, insomma non c'era una chiusura a priori rispetto a questo dialogo, tant'è che in questi mesi anche molti docenti, ricercatori si sono anzi offerti, esatto, di far vivere quello spazio, di organizzare degli incontri dentro la C1, sì, riuscendo appunto anche a sfruttare insomma la possibilità di andare oltre le rigidità di orario, ma non solo, che quello spazio offre, quindi... Sì. Sì, infatti, cioè, mi permetto di aggiungere una cosa, come dicevi proprio tu, infatti settimana prossima, proprio nel contesto delle iniziative della C1, il Cineforum di Sociologia del Dipartimento di Scienze Politiche verrà spostato appunto nell'aula C1, quindi siamo già usciti con il manifesto che dice Campus Invaders e Dipartimento di Scienze Politiche animeranno un nuovo Cineforum nell'aula C1, questo per dire che comunque sia, da un lato la C1 in questi 8 mesi e mezzo ha fatto vivere tantissime iniziative e poi soprattutto quello che abbiamo sempre ribadito ai tavoli, che un posto come la C1 nel campus manca, perché comunque sia, oltre ai problemi di spazi che ci sono nel campus, c'è anche la C1 in questi 8 mesi e mezzo comunque sia ha mostrato dei tratti di originalità rispetto a tanti altri posti in università, anche perché come ci teniamo sempre a dire è un posto veramente aperto e a disposizione degli studenti, per gli studenti, e quindi comunque sia nel campus manca un posto dove qualche studente può venire, proporre un'iniziativa piuttosto che un cineforum, piuttosto che un dibattito e renderla appunto effettiva. Ebbene, al campus tutto questo manca e noi comunque sia quello che ci teniamo sempre a dire è che la questione è che oggi in assemblea affronteremo meglio che la questione non è legata solo appunto alla C1 come spazio singolo, bensì la questione degli spazi e dei problemi di spazi nel campus rimane. E se oggi andranno a chiudere anche l'unico posto, fra virgolette, liberato del campus, pensiamo sia veramente un problema. Però un problema che si va a sommare in modo molto più generale agli spazi, alla mancanza di spazi di socialità nel nuovo polo universitario, come tanti piccoli problemi che possiamo, o problemi legati ai servizi, come appunto la biblioteca o gli armadietti su cui ci siamo spesi e tanti tanti altri problemi. Quindi adesso c'è anche un po', fra virgolette, non di confusione, ma è tutto in itinere, perché avremo l'assemblea oggi alle 16 appunto per decidere un po' come muoverci rispetto a queste cose qua. Naturalmente, come si evince, la C1 in questi 8 mesi e mezzo ha fatto cose, si è contraddistinta per far sì che l'università degli studenti venga vissuta non più come meri oggetti, bensì come soggetti. E naturalmente su questo tutta l'assemblea è convinta che non farà un passo indietro, e quindi aspetteremo, e oggi stileremo appunto una tabella di marcia che ci porterà alle prossime iniziative, con la fermezza che un posto come la C1 c'è stato per 8 mesi e mezzo e ci continuerà ad essere. Va bene Mattia, noi ti ringraziamo, rilanciamo anche da questi microfoni ovviamente per chi volesse la partecipazione all'assemblea di questo pomeriggio e l'appuntamento che già ricordavi anche tu con il Cineforum di domani sera. La proiezione di questa settimana sarà dedicata a Carnage, il film di Polanski del 2011. L'appuntamento sarà per le 19:30 per un piccolo aperitivo, poi intorno alle 20:45 ci sarà l'inizio della proiezione, quindi rilanciamo sicuramente con piacere questi appuntamenti. Per ora ti ringraziamo per questi aggiornamenti che ci hai dato, sicuramente nelle prossime settimane rimarremo anche da qui con le orecchie tese rispetto al futuro dello spazio. Ok, grazie a voi, grazie a Parole Libere Belli e grazie agli ascoltatori, buona giornata. Ciao Mattia, buona giornata ciao, anche a te. Grazie, ciao ciao. Allora, a quanto pare nel frattempo tutti i telefoni sono tornati raggiungibili più o meno contemporaneamente. Ringraziamo insomma Mattia per la disponibilità a questa diretta anche con il poco preavviso. Nel frattempo siamo riusciti anche a contattare i compagni di Cremona, quindi a breve dovremmo riuscire a dare un aggiornamento anche da lì. Nel frattempo vi lasciamo a un po' di musica. Scrivo ancora con la penna, troppo cielo su di noi come in pace e guerra, dedicata ad ogni stella sul cielo di Ballarò, cadete sul cemento che calpesterò. Questo è il marchio della city e non lo togli di dosso, tutto ciò che hai fatto non può essere rimosso. Oh, tutto questo sei tu, oh. Questo è il marchio della city e me lo vedi addosso, tutto questo sono io senza alcun rimorso. Oh, tutto questo sono io, oh. Sto guardando le foto, ogni centimetro fa parte di te, i segnali, le linee mi ricordano te, ciò che puoi essere nessuno raccoglie, pare voglia dormire sulla pancia delle foglie, mille bandiere, portoni e galere, vorresti andare dritto con la pace di avere, ma lì fuori trincea certe sere, i muscoli colpisce e sorreggi, vuoi un cuore perché ovunque proteggi, magnetico, non puoi restare sempre sul tetto, tenerti distretto un angolo perfetto, se non ci pensa Dio ci penserà l'architesse, non ci penso io, so già quanto scommettono, mai vergognato dei diritti della causa, dei mobili della casa, nemmeno di fare pausa, e non fumo uno alla vostra salute, mentre la radio informa e la scena si chiude, tutto il resto va così, questo è il marchio della city, non lo togli di dosso, tutto ciò che hai fatto non può essere rimosso. Oh, tutto questo sei tu, oh. Questo è il marchio della city e me lo vedi addosso, tutto questo sono io senza alcun rimorso. Oh, tutto questo sono io, oh. E allora, mentre cerchiamo di metterci in contatto con Cremona, vi diamo intanto due indicazioni per come raggiungerla questo sabato. Allora, da Torino si organizzeranno dei pullman. Il numero da chiamare per prenotare è 392-189-1329. Sì, ovviamente adesso segneremo il riferimento anche qui nell'agenda della radio, di modo che venga ricordato insomma nelle prossime ore, nei prossimi giorni. L'invito a passare anche da Palazzo Nuovo in questi giorni, sicuramente metteremo tutte le informazioni del caso anche lì, un po' come diciamo punto di riferimento per la partenza. Il costo dovrebbe aggirarsi come sempre sui 15 euro tra andata e ritorno, ovviamente in giornata, però appunto siamo, insomma, poco preavviso, ovviamente ci stiamo attrezzando per organizzare tutto al meglio nel più breve tempo possibile. L'appuntamento è sabato mattina alle 10:30 al Cimitero Monumentale, dove diciamo siamo soliti incontrarci per le trasferte, e appunto il ritorno sarà in giornata. E come diceva Francesca, tutti gli aggiornamenti tra le libere frequenze di Radio Blackout e Palazzo Nuovo per quanto ci riguarda. Ripeto ancora un attimo il numero per chi non l'avesse segnato: 392-189-1329 per prenotare un posto in pullman per andare questo sabato a dichiarare quanto tutto il nostro antifascismo. Io che non ho storie di sangue, di bande, di bandane. Ho solo domande, lavoro costante. Chi vuole fare la colonna sonora e chi vuole fare la colonna portante? Che palle al piede si meravigliano se non sono arrogante. Se non metto una nozione abbronzante e non prendo una porzione abbondante. Questa musica è un piacere assordante. Non mi capivano da piccolo, ma mi sentivano anche se murato prima. Questo è l'amore, non una cena fredda senza sale e senza sapore. Se per favore spieghi la differenza tra affossare le persone e dargli un valore, uccidere le idee sperando che quest'ultime poi ti sorridano senza rancore. Comodo come sedere sopra il lavoro degli altri. Il tuo lavoro non ha tanto valore, ma sembra oro da come ne parli. Se dico il vero tu vuoi accoltellarmi, non stressarmi, non dire come non legarmi o come collegarmi, come ragionare con le armi o come tollerarti anche se non serve. Fuori dal tuo serve, vedi il mondo osserva, come il tipico tipo che gira armato sempre. La spera che non serva mai, mai. Qui non ricevi sempre per ciò che dai. È pieno di starlet, ma non è media se non è la Rai. Non è la Rai. Sarei curioso di vedere loro al posto nostro, posto nostro, posto nostro. Noi ci stiamo, ci viviamo e non invidiamo il posto vostro. Sembra nostro, lo giriamo cost to cost, sempre in corsa finché rimaniamo al posto nostro, posto nostro, posto nostro. Noi ci stiamo, ci viviamo, vieni a terra. Che non è ancora ora di volare, non puoi decollare, prima impara a stare con i piedi a terra. Piedi a terra, piedi a terra, piedi a terra, piedi a terra, piedi a terra. Io che non ho piani B, alibi, conti, carichi, me ne fatto dei talent show. Vieni a vedere coi tuoi occhi quanto talento ho, quanti difetti e quanto rispetto ho, quanti concetti e quali progetti ho. Se scommetti quando ti metti in mostra, se quando perdi ti metti in corsa, non sto, sì lo so, che qui tutto ha un costo. Infatti, sono ancora diffidente quando appare la parola gratis. Vedo venditori d'aria, imprenditori in un'Italia povera di dati. Ti sbattono in faccia, sogni già realizzati. I numeri pari e tu che ci cavi. Ora vado in moda a fare gli illuminati, anzi duplicati come le chiavi, come le chiavi. Non aprono porte, chi ti ci porta, come ti chiami? Appoggiano colpi, lavoratori pomeridiani. Si addossano col vero, si tieno ossa, poveri cani. I criticoni volano, ma non atterrano. Se potessero ucciderti con un click lo farebbero. Qui non ricevi sempre per ciò che dai. È pieno di starlet, ma non è Mediaset, non è la Rai. Non è la Rai, non è la Rai. Sarei curioso di vedere loro al posto nostro, posto nostro, posto nostro. Noi ci stiamo, ci viviamo e non invidiamo il posto vostro. Sembra nostro, lo giriamo cost to cost, sempre in corsa finché rimaniamo al posto nostro, posto nostro, posto nostro. Noi ci stiamo, ci viviamo, vieni a terra. Che non è ancora ora di volare, non puoi decollare, prima impara a stare con i piedi a terra. Piedi a terra, piedi a terra, piedi a terra, piedi a terra, piedi a terra. E Allora, rispetto agli aggiornamenti da Cremona, andiamo a leggere un post di pochi minuti fa lasciato dai compagni e dalle compagne di Radio Onda d'Urto, che in questi giorni stanno facendo insomma un lavoro continuo di informazione sulla vicenda. Al momento Domenico, che era il nostro contatto, non risponde, però insomma immaginiamo che per i compagni di Cremona siano giorni sicuramente difficili e concitati, quindi niente, andiamo a leggere l'aggiornamento che probabilmente è stato fatto sempre con loro, quindi prendiamo da Radio Onda d'Urto quello che leggiamo, cioè che questa mattina è stata effettuata una TAC al cervello ad Emilio e che insomma questo invece, contrariamente insomma a quanto sembrava, invece fa ben sperare, perché l'ematoma è stabile. L'aggravamento che c'è stato nella notte, di cui parlava Domenico durante la diretta effettuata dall'info, riguarda invece i polmoni, perché c'è stato un versamento di sangue che i medici però stanno già drenando. Le condizioni insomma peggiori al momento per i colpi che ha ricevuto interessano anche il nervo ottico, perché appunto ricordiamo che è stato colpito ripetutamente alla testa anche una volta che si trovava già a terra. Appunto il nervo ottico è stato profondamente interessato dai colpi e questo potrebbe comportare la perdita della vista appunto da un occhio. Oggi i medici cercheranno di svegliare Emilio dal coma farmacologico che è stato indotto negli scorsi giorni, quindi insomma rimaniamo sintonizzati. Questi sono gli aggiornamenti insomma da un lato positivi, dall'altro un po' meno, però continuiamo insomma a unirci al grido che sta attraversando tutta l'Italia e non solo in queste ore di Emilio Resisti. Speriamo che insomma col passare delle ore le notizie siano sempre migliori. Colle del Fomento, gente defogliata, di nuovo insieme, perché qua è tutto sbagliato. Mi capisci? Sì. E non lo so se mi capisci, però sì, nel nome dei partiti, della chiesa e delle banche, un paese che è in cimitero, lavoro nero e morti bianche, auto blu, luce lampeggiante, sparano e poi calano il sipario su uno sfondo rosso sangue. Tu non conta più se sei innocente o colpevole, non esiste logica, non ci sono regole, ma trappole per fatta là, fuori dal binario, sei carne da macello, statistica da notiziario, tutto è malnato, al contrario, pianificato, sacrificato al dio della finanza e del mercato, il prezzo per il nulla che ti danno è raddoppiato, e il nome del profitto, ogni diritto è cancellato, e a nessuno pare strano, tutte queste strade piene di soldati con il mitra in mano, fucile a testa uomo per difendere l'impero, è tutto sbagliato, ma il peggio è che tutto è orologi che odiano, dinamite nella testa, pensieri che implodono, esplodono, sta poco quello che avete cambiato, che avete lasciato, ed è tutto sbagliato, siamo occhi che odiano, mayday nella testa, pensieri che esplodono, implodono, sappiamo quello che abbiamo lasciato, che abbiamo creato, ed è tutto sbagliato. Così non va, mo parliamo sul serio, tocca cambiare, ma cambia è meglio, e svario, pensiero fisso da quando mi sveglio, a giro perso in un mondo che straio, dove tutto è sbagliato, già tu crasci un taglio, mondo mio bello se un guaio sporco, un gioco storto e boom, un giorno un altro morto, un altro corpo che si è portato via un cuore, un'altra bocca che maledice il signore, qua più che amore c'è dinamite in questa polveriera, devo fare e devo andare prima che venga sera, da fuori è tutto sbagliato e si respira nell'atmosfera, resta fermo impalato, non sei risolto e se la flera, l'amicizia accesa ma non si sa quanto dura, e nella vita ci va coraggio, saggio, figlio della paura, io intanto faccio se vedo che fa cura, ho fatto bene, ho fatto male, risposta dura. Sono incastrato in questo stato mentale, dove è tutto sbagliato, è tutto da rifare da capo, tutto va puttane, è tutto da buttare, nel cranio c'ho un vulcano che è già pronto ad eruttare, e io più primo sono sbagliato e sbaglio, avvelenato con la bava e non me metto in erbavaglia, c'ho sto bagaglio pieno secco d'errori, alla fine non so meglio, sono cresciuto qua fuori, pure io, tra impostori con la faccia pulita, mio caro onorevole la faccia finita, c'ho il sangue negli occhi e la faccia finita, dico tutto sulla traccia e rido in faccia alla vita, io resto a galla mentre tutto sprofonda, se tutto crolla dove vuoi che mi nasconda, c'ho il passaporto per l'inferno già timbrato, reso conto sul quaderno ed è tutto sbagliato. colossi che odiano, dinamite nella testa, pensieri che implodono, esplodono. Sta poco quello che avete cambiato, che avete lasciato, ed è tutto sbagliato. Siamo occhi che odiano, mayday nella testa, pensieri che esplodono, implodono. Sappiamo quello che abbiamo lasciato, che abbiamo creato, ed è tutto sbagliato. E è tutto storto, mondo sporco e corrotto. Qui tutto va in malura, però ancora non ci fiora molto. Siamo distratti dal contorno e mentre fanno i viaggi giorno dopo giorno, i fatti dicono che andiamo a fondo. I politicanti fanno cazzi a quattro cifre, vanno in barca alle Maldive, mentre il popolo non riesce a vivere. Qualche protesta si reprime, hai da ridire, il manganello è la risposta che te danno, questo è il loro stile. Io odio ogni guardia messa a guardia destro schifo, ogni partito, ogni politico, ogni stato è stato seppellito. Odio ogni stronzo partorito dal sistema, odio giornali e giornalisti ed ogni servo del sta messa in scena. C'è sta l'amico del fratello, del cugino, se dividono il pontino, fanno ride solo chi è del giro. Tutto sbagliato e noi per primi che accettiamo che sto scempio possa esistere perché ancora glielo permettiamo. Tutto sbagliato, pago i buffi dello stato infame, lo stipendio ai poliziotti, merda sulle strade, per le guerre stipendiate che sponsorizzate, con pezzo triplo con i soldi nostri eroi errate. Sotto suolo sono sotto 1000 euro al mese, sotto zero le statistiche del mio paese, sotto scacco delle spese, crocifissi e chiese, sotto cassa mutuo in bilico e senza difese, contro mano, contro vento per necessità, senza terra, senza casa, senza libertà, disarmato sotto il tiro della società, quello che ci serve se lo abbiamo ma non può bastare. Tutto cambia, certe cose no, rubano il futuro in campagna elettorale, ci promettono. Tutto è stato assassinato e non ha mai pagato, è tutto da rifare, sì, è tutto sbagliato. Colossi che odiano, dinamite nella testa, pensieri che implodono, esplodono. Sta poco quello che avete cambiato, che avete lasciato, ed è tutto sbagliato. Siamo occhi che odiano, mayday nella testa, pensieri che esplodono, implodono. Sappiamo quello che abbiamo lasciato, che abbiamo creato, ed è tutto sbagliato. Dodici e 18, il nostro cari Metref purtroppo non è stato raggiunto in nessun modo, a quanto pare la Wind ha egemonizzato il suo telefono. Bene, allora purtroppo diciamo questa diretta voleva un po' allargare il discorso interessante, un dibattito con lui, anche a chi non potrà essere presente al dibattito che organizzeremo in università proprio con lui come ospite, tra gli ospiti anzi. Però a quanto pare purtroppo non possiamo. 12 e 19 abbiamo ancora un po' di tempo, quindi comunque due parole al riguardo, vale sicuramente la pena spenderle. Bene, si dà diciamo il blog di questo educatore di Vaga Azioni, e sono usciti a ridosso dei fatti di Parigi due articoli, entrambi molto interessanti. Il primo, spontaneo, mi dispiace ma non sono Charlie, e il secondo in risposta a un'altra diciamo inserzionista di Internazionale, Hijaba Shego. Hijaba Shego, appunto, anzi cominciamo da Karim, va? Appunto questo... in questa sequela uniforme di cordoglio intorno a le morti di Parigi, sono pochissime le voci che di fatto hanno spezzato questa quest'unità, un'unità che vediamo sono sempre pronti tutti quanti a sventolare quando si tratta di creare il nemico, di appunto puntare il dito contro qualcuno, ma che poi, cioè, che effettivamente poi è un'unità anche di politica, perché abbiamo visto poi il cordone parigino, che cosa il famoso cordone parigino, che cosa appunto ci ha regalato. Quindi appunto in quelle giornate in cui tutti erano Charlie, qualcuno diceva mi dispiace ma io non lo sono. Quel qualcuno, oltre appunto non è Karim Metref da solo, solo, ma anche vari altri che di fatto conoscono il giornale Charlie Hebdo, ne conoscevano diciamo anche la un po' il declino, perché da giornale di satira pungente che se la prendeva con i vertici di questa società, adesso erano ormai un po' di tempo che Charlie Hebdo puntava tutta la propria ironia su contro l'Islam sostanzialmente, quindi una facilissima è buona per tutte le stagioni manovra così per continuare ad avere un po' un argomento di punta. Bene, quindi nulla di che a un certo punto, dopo questo fatto, questo giornale torna ad essere il giornale di sinistra, il giornale della libertà d'espressione. Ebbene, sappiamo invece che la storia è un'altra, ed è Karim stesso che ce la racconta dicendo, tracciando inizialmente una piccola genealogia di questo giornale, indicandone l'antenato Arachiri, indicando anche un netto cambio di indirizzo da un certo punto in poi, ma ovviamente non è per il fatto che stava facendo ridere di meno Charlie Hebdo che non ci si è uniti a questo coro, bensì perché appunto là un po' suona strano nel momento che le governance diciamo europee si siano strette in un unico abbraccio. Bene, quest'unico abbraccio l'abbiamo già visto stringersi intorno ai parenti, ai familiari dell'11 settembre, per esempio, a cui poi è seguito il Patriot Act. Insomma, abbiamo visto che questo tipo di solidarietà non solo non è tale, ma di solito è il precedente perché poi si dia una stretta securitaria, quindi l'ondata diciamo di trattazione di questo fenomeno ci ha consegnato due dati immediati. Uno, quello della costruzione del nemico, del famoso scontro tra civiltà, una parola che fu diciamo un tipo di trattazione, diciamo di tematizzazione del conflitto che appartiene a Samuel Huntington, che a inizio, diciamo verso la fine della guerra fredda, proprio diceva sta finendo la guerra fredda, inizia uno scontro tra civiltà. Ecco, quello andato in scena in questi giorni è sicuramente uno scontro tra civiltà, la civiltà europea della libertà d'espressione bianca e tutta un'altra economicamente florida, e invece l'inciviltà di qualunque appartenente alla religione musulmana piuttosto che esterno da determinati confini. E quindi il primo dato appunto è questo, e il secondo è sicuramente anche come si cerca di dipingere la solidarietà stessa, perché se solidarietà vuol dire mettere Je suis Charlie su Facebook, allora certo è che tutte le forme di solidarietà attiva tenderanno sempre più a scomparire. Interessante anche secondo noi moltissimo è proprio questo cordone parigino di cui parlavamo, che effettivamente non traccia i confini dell'Occidente europeo strettamente dell'Unione Europea, ma traccia dei confini di potere molto netti, nel senso che abbiamo visto non solo appunto prendere parte alla marcia parigina governanti e presidenti vari di paesi che vengono diciamo appunto tacciati di non garantire la libertà d'espressione a casa e di andare poi fino a Parigi a gridarne, a reclamarla. Ecco, tutto ciò non è che sia tanto diverso rispetto ai governanti europei, non ci risulta diciamo che esista una libertà d'espressione in Europa così astratta e assoluta e sganciata dai contesti come la si vorrebbe. Bene, che cosa ci dice quindi un po' questo cordone? Che effettivamente il blocco di potere è una sorta di attacco nei nostri confronti. In che senso? Quella non si traccia solo un confine diciamo tra la nostra civiltà, che è quella giusta, quella buona, e l'altra civiltà, ma si traccia una linea netta tra quel cordone che ha un certo potere, una certa rilevanza, e tutti coloro che vi sono dietro.

mando tutti all'inferno e vado a farmi una passeggiata in questa notte invernale che sa di primavera. Speriamo non araba. E questo sì, insomma, era un po' il paragrafo finale che però condensa bene un po' il senso di questo articolo, che rispondeva appunto non solo a questo post di Bala, ma che voleva rispondere un po' più in generale, credo, a questo fenomeno che in mezzo un po' al insomma all'isteria post attentato a Parigi, da cui ovviamente su cui ovviamente Karim specifica di non avere nulla che spartire, ma appunto si è poi un po' mischiata questa isteria collettiva del dire vi dovete dissociare, questo voler vedere appunto gli immigrati bravi ed integrati che in prima persona appunto si mettevano il cartello Je suis Charlie e via dicendo. Quindi niente, ci sembrava uno spunto interessante tra i tanti che comunque sono usciti poi nelle ore successive, che un po' si discostavano insomma dai binari della discussione mainstream. Speriamo appunto che nei prossimi giorni ci sia modo di discuterne all'università. Ci sembrava che comunque fosse importante, in uno spazio che per definizione insomma di confronto e di cultura, provare a uscire un po' dall'appiattimento del dibattito che si è imposto per la maggior parte, provare a stimolare appunto qualche riflessione in più, magari anche di confronto acceso, ma che appunto provasse a mettere sul piatto qualche cosa di più. Rispetto a questo ovviamente rimandiamo ai nostri riferimenti della pagina Facebook e del blog del Collettivo Universitario Autonomo, dove non appena avremo insomma chiuso su tutte le presenze dei relatori che ci piacerebbe avere in questa tavola rotonda, metteremo insomma locandine, riferimenti e quant'altro. Nel frattempo abbiamo fatto le 12:33, quindi vi lasciamo a un ultimo pezzo, poi andiamo come sempre a leggere un po' di appuntamenti di questi giorni prima di salutarvi. Allora, 12:36, anche per questa settimana ci avviamo verso la conclusione di Parole Ribelli. In chiusura andiamo a ricordare qualche appuntamento a partire dalla giornata di oggi. Questa sera confermato il consueto appuntamento con la cena all'asilo occupato. Questa sera il ricavato sarà benefit per la resistenza curda in Rojava. L'appuntamento come sempre in via Alessandria 12. E andiamo avanti a mercoledì 21, Mezcal Squat, cena bella vita, porta quello che vuoi trovare al Parco della Certosa con legno. Non vediamo appuntamenti per la giornata invece di giovedì, rispetto invece a domani ricordiamo di nuovo l'appuntamento alla C1 occupata di cui abbiamo già parlato prima con la proiezione di Carnage, appuntamento a partire dalle 19:30 per aperitivo e poi proiezione, mentre passando alla giornata di giovedì 23 ci è segnato un appuntamento su Roma e Sinti, la memoria che non c'è, dai campi di sterminio ai campi della democrazia. Ci sarà un dibattito con Paolo Finzi, curatore di A Forza di Essere Vento, e l'appuntamento è alla sede della FAI di Corso Palermo 46 alle ore 21. No, scusate, ho detto una cazzata, l'appuntamento che ho appena letto è venerdì e non giovedì, quindi venerdì 23 ore 21. E andiamo a sabato 24, sappiamo che il Paso occupato, Hardcore non si comanda, sabato 24, il Paso occupato e Hardcore non si comanda presentano dal vivo Contrasto, Burin e Nugget da Bergamo, benefit Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. E andiamo a ricordare l'appuntamento nazionale invece di sabato, di nuovo, di cui abbiamo parlato un po' nel corso di tutta la mattinata, il corteo antifascista a Cremona, Pullman da Torino, ribadiamo, info e prenotazioni al 392 189 13 29. Andate e ritorno in giornata, costo intorno ai 15-20 euro a seconda di quanto verrà riempito il Pullman, partenza alle 10:30 del mattino dal cimitero monumentale. E questo più o meno è quanto, noi quindi per questa settimana vi salutiamo, tra pochi minuti andrà in onda il GR, poi per quest'oggi non ci sarà Cattivi Pensieri, ma lo spesso è pronto a sostituire, a coprire lo spazio, quindi in ogni caso rimanete sintonizzati sui 105.250, la programmazione della giornata ancora lunga e pronta a tenervi compagnia. Noi ci risentiamo martedì prossimo come sempre dalle 10:45 alle 12:45. Dagli studi di Via Cecchi vi auguriamo buona giornata e vi salutiamo. E un saluto a tutti e tutte, quindi da Francesca Eddi. Ci sentiamo martedì prossimo.